Allora, vi presento Ludovica Perina, che questa sera parteciperà a questo incontro. Sono onoratissimo della sua presenza qui a Torino, perché è assolutamente legata ai temi del libro di cui parleremo. Incantagioni è una storia di sibille, di sonnambule, di veggenti, donne che vedono al di là dello spazio e del tempo. E la più nota sibilla dell'antichità si chiamava Cassandra, la conoscerete dai testi classici. Cassandra aveva previsto la guerra di Troia, aveva messo in allerta i troiani che dentro quel cavallo c'erano dei soldati, quindi di non accettare quel dono. Purtroppo non era stata creduta, perché la sua caratteristica principale era di non essere creduta. Lei vedeva il futuro ma non le credevano. Perché? Perché aveva ricevuto questi poteri dal dio Apollo, il quale poi aveva fatto delle avance sperando di, in cambio di questo dono, di ottenere le grazie di Cassandra. Cassandria si era rifiutata di concedersi e quindi, come punizione, Apollo la maledice e lei non verrà più creduta, quindi la guerra di Troia scoppia grazie a questa incredulità. Ludovica dai giorni pandemici cura un podcast meraviglioso che si chiama non a caso Cassandra ma con la K, ed è un blog che parla di futuro, che ci racconta dei moderni fuochi in arrivo, della catastrofe climatica, parla di eteropatriarcato e di quanto incide sulle nostre vite rovinandocele. È un po' anche succube di quella stessa maledizione che colpì Cassandra all'epoca, perché si ribella appunto all'eteropatriarcato e cerca di rompere un po' quelle catene. Ed è un podcast che vi suggerisco assolutamente di scoprire, di cercare online. Lo cura insieme a Luca, che anche qui è che invece ne è il produttore e il DJ che si occupa della parte audio, quindi sono onoratissimo anche della sua presenza. Luca e Ludovica stanno facendo un lavoro meraviglioso, è in arrivo la settima puntata, ottava in realtà perché c'è anche una puntata zero dopodomani, quindi recuperate le prime perché è imperdibile poi la prossima. Spero naturalmente che questa serie vada molto avanti, e visto che appunto è una serie che parla di futuro e si chiama Cassandra, quale miglior presenza se non qui a presentare Incantagioni, che non Cassandra, una Cassandra in carne e ossa. Quindi grazie Ludovica per essere qui e buona serata a tutti. Grazie a te per avermi dato l'opportunità di... Mi sentite? Io non ho una voce prestante e presente che ho Mariano, però spero che mi sentiate, e grazie a te ovviamente, cioè, di avermi dato questa possibilità di introdurre questa presentazione, che tra l'altro è una presentazione molto particolare perché intanto è la prima di un tour che andrà avanti per un po' di giorni, in cui farai 4 giorni, giusto? In cui farai una presentazione del libro, cioè varie presentazioni del libro in tutta Italia. Non a caso la prima presentazione la facciamo a Torino, che non solo è la tua città, la città in cui sei nato, in cui sei cresciuto, in cui vivi, ma è anche la città in cui è ambientata la prima delle 6 storie che compongono questo libro. Perché Incantagioni è un libro che parla di una raccolta, diciamo, di 6 racconti, sono 6 storie che Mariano ha raccolto facendo un'operazione anche storiografica impressionante. Cioè è un libro pazzesco, questo non lo dico perché sono qua, ma è un libro pazzesco, e sono 6 storie di donne, appunto, di sibille che si sono liberate dall'oppressione eteropatriarcale attraverso dei trucchi, diciamo, di illusionismo e di magia. La prima, la storia da cui mi piacerebbe partire, è ambientata a Torino, quindi si parla di una sibilla torinese. Prima di partire però, io introdurrei, diciamo, in generale quello di cui parla effettivamente questo libro, cioè di che tipo di magia parla questo libro, perché in realtà un sacco di persone, insomma, mi hanno detto, non avendolo ancora letto, appena uscito questo libro, un sacco di persone pensano che Incantagioni parli di streghe. Invece non parla di streghe, di che tipo di magia parla Incantagioni? Allora, io partirei dal sottotitolo, dove c'è l'elenco delle protagoniste di queste pagine, che sono veggenti, sibille, sonnambule e altre fantasmagoriche liberazioni. La parola più strana è sonnambule, perché noi conosciamo il sonnambulismo come un problema che colpisce molte e molti di noi, perché anche la notte si svegliano e si trovano in cucina. Questo è il sonnambulismo che conosciamo, il sonnambulismo naturale. Non c'è niente di grave nel soffrirne. Nell'Ottocento però il sonnambulismo era uno stato completamente diverso, esisteva anche uno stato di sonnambulismo artificiale, ed essere sonnambula o più raramente sonnambulo era una professione, si faceva professione di sonnambulismo. È un punto di partenza interessante, perché che diamine di lavoro era fare la sonnambula? Io ho portato una copia della Gazzetta Piemontese del 25 novembre 1852, che nella pagina degli annunci dietro aveva qui il ritaglio dei consulti di magnetismo della sibilla moderna, proprio la protagonista di questa prima storia. Era una una donna parigina di cui noi non conosciamo il nome perché si presentava sempre e soltanto come la Sibilla Moderna. Che cosa aveva di moderno la Sibilla Moderna? Era molto diversa da Cassandra perché lei non utilizzava la magia, il misticismo, ma utilizzava una sostanza chiamata magnetismo animale che era stata teorizzata una cincantina di anni prima da Franz Anton Mesmer, un medico tedesco che sosteneva che tutti gli organismi sono dotati di un fluido chiamato magnetico, un fluido magnetico simile a quello delle pietre, ma appunto animale perché posseduto dagli esseri viventi. Manipolando questo fluido si potevano fare cose straordinarie, si potevano curare le malattie, vedere le cose fuori dalla, lontane dalla vista, leggere nel pensiero, prevedere il futuro. Insomma, per un certo periodo la scienza si è convinta di poter ottenere effetti magici seguendo delle normali procedure mediche, in particolare come? Utilizzando i passi magnetici. La scena che si vedeva sempre era questa: un uomo, il magnetizzatore, imponeva le mani a una donna seduta su una sedia spesso bendata, questa donna cadeva in uno stato chiamato di sonnambulismo e questo stato a metà tra la veglia e il sonno, in cui la persona non era né completamente sveglia né completamente addormentata, spalancava delle possibilità, delle visioni. Le apriva il terzo occhio in qualche modo, quindi la donna in stato di sonnambulismo riusciva a diagnosticare malattie, prevedere il decorso delle malattie, trovare il colpevole di un delitto o del furto di una refurtiva, ritrovare la refurtiva nello spazio individuandola, descrivendo il luogo dove sarebbe stata nascosta, leggere nel pensiero, leggere nei libri chiusi, tutta una serie di apparenti miracoli che improvvisamente diventavano moderni perché non più legati a un'esperienza mistica ma alla scienza. Se volete un'idea di che cosa si poteva vedere a teatro negli anni della Sibilla Moderna, andando a vedere la Sibilla Moderna al Vauxhall, che è vicino a Via della Rocca, su un teatrino che è sparito, che si trovava su Via della Rocca, io posso darvi un assaggio di questa esperienza. Ho portato con me una sonnambula con cui rimettere in scena una delle esperienze che andavano in scena. Così potete vedere a 150 anni, 170 anni di distanza quella che era l'esperienza di uno spettacolo di magnetismo. Viva? Siete così almeno capite praticamente di che cosa stiamo parlando. Io ho la benda, ho la splendida sonnambula Denise che ci darà una mano, vi chiedo un applauso, l'ultimo perché poi nel momento in cui cadrà in stato di sonnambulismo vi chiedo di non applaudire per non rompere quello stato assolutamente delicato ed elusivo. Allora, procedo a bendare, che se poi non è abbastanza stretta. Va bene. Ok, tenteremo un esperimento di lettura del pensiero o visione a distanza, bisogna poi capire, non è chiarissimo che cosa sia in gioco durante questo esperimento. Utilizzeremo un mazzo di carte, io non voglio più parlare da un momento, da un certo punto in poi, perché altrimenti potete pensare che io mandi dei segnali, che era il metodo classico con cui questa cosa veniva riprodotta dagli illusionisti. Io non voglio mandare dei segnali verbali, quindi io farò scegliere delle carte ad alcuno di voi, poi non dirò una sola parola, schioccherò le dita e la sonnambula cercherà di mettersi in contatto mentale telepatico con ciascuna o ciascuno di voi. Prima però devo procedere alla magnetizzazione, quindi mi chiedo solo un secondo. Vedo una donna nera di picche. C'è anche un uomo con una corona di fiori, il re di fiori. C'è del sangue, gocce di sangue, una, due, tre, quattro, no, cinque. Sette. Otto. Nove. Dieci. Dieci di cuori. Potete farle un applauso. Questo era il tipo di esperienze che si potevano vedere a teatro. Ora, io sono reduce dalla scrittura e dalla realizzazione di un documentario che ho fatto 9 anni fa, che si intitola Donne a metà, in cui raccontavo i risvolti sessisti e di un'illusione da palcoscenico molto nota, quella della donna segata in due. Ed era una ricostruzione storica di questi numeri in cui cercavo di interrogare in particolare il maschile e chiederci: ma davvero noi non siamo in grado di portare sul palcoscenico qualcosa che non sia la tortura di una donna e poi il ricomporre un corpo martoriato da secchiate di topi addosso, pugnalate, eccetera. Mi sembrava che l'illusionismo fosse un po' imprigionato in una serie di stereotipi. E quindi mi sono detto: che alternative ci sono a questo scenario? Visto che il panorama è abbastanza desolante, ho guardato al passato, mi sono reso conto che nell'Ottocento in scena andavano cose come questa, in cui la dinamica era molto più interessante, perché c'era un uomo che aveva in qualche modo il potere di controllare quello stato mentale alterato. Ma nel momento in cui quello stato si accendeva, l'uomo diventava un valletto, non serviva più a nulla. Era la donna che diventava il centro della scena ed era capace di vedere al di là della vista. Andando a recuperare le storie vere, tutte autentiche, di queste donne, mi sono reso conto dei modi sottili, intelligenti, geniali, con cui queste donne hanno approfittato di questo spazio che in qualche modo erano riuscite ad aprirsi per dire delle cose, per portare avanti delle rivendicazioni. E questo libro è il frutto di questi 9 anni di lavoro, cioè che cosa si può dire di altro sul palco che non sia soltanto io sono un maschio in grado di segare in due una donna, ma poi quella violenza non lascerà nessuna traccia perché vedete l'ho ricomposta e possiamo tornare a casa tutti contenti. Questo succede anche dietro le porte domestiche perché basta non lasciare il livido e tutto poi si ricompone. Esistono alternative, questo è un po' il tentativo di cercare delle risposte. E a proposito di questo, uno dei temi, diciamo, ricorrenti del libro è il tema dei nomi, quindi queste donne diciamo sono anche donne che non vengono mai nominate, oltre che nel senso tu vai a fare tutto un lavoro di ritrovamento dei nomi di queste donne e ridai nome a queste donne e le ridai anche loro voce, giusto? Perché tu dici che il tuo ruolo di autore maschio in questo caso è di tenere il microfono, il megafono per queste donne, quindi anche ridando loro un nome, diciamo. Sì, io mi sono stupito della reazione recentissima a questa notizia che i bambini potranno avere il cognome della madre, no? C'è una resistenza mostruosa con una serie di argomentazioni interessanti che però svelano quanto in realtà è importante il nome, evidentemente, altrimenti non ci sarebbe tutto questo allarme da parte di noi maschi al fatto che c'è il rischio che si prenda il cognome delle donne. In realtà la rimozione sistematica dei nomi delle donne che nell'Ottocento facevano questi lavori è impressionante. Per esempio la Sibilla moderna naturalmente non nacque con questo nome e il suo nome è difficilissimo da trovare. Io l'ho anche un po' presa come un gioco, ma che cosa succede se qualcuno prova a investigare per scoprirlo il vero nome? Qual è il vero nome della Sibilla moderna? E la cosa in cui mi imbatto è che la Sibilla moderna aveva 3 nomi in realtà. ognuno dei quali ha lasciato tracce in momenti diversi e per motivi diversi, ed è difficilissimo dire qual è quello vero, perché ciascuno svolgeva delle particolari funzioni. E il semplice cercare, il semplice investigare su questi nomi porta a galla un sacco di storie interessanti. Per esempio, lei acquista improvvisamente un nome, il suo nome di battesimo, quando viene processata, perché era, tra le altre cose, una praticona, una Vanna Marchi dell'Ottocento. Io non parlo di persone sante, anzi, parlo tutto di persone ribalde, che hanno usato l'inganno in maniera molto esplicita, e con un certo fascino ne parlo, perché è bello seguirla in questo tentativo di contrapporsi a una società violenta utilizzando anche l'inganno. Lei improvvisamente diventa Rosalie Lefebvre quando finisce in tribunale, per cui invece i documenti processuali ci tengono bene a dire che è costei di questa tal famiglia. Più tardi, quando si troverà a dover tornare a Parigi dopo un processo per il quale aveva ricevuto una condanna e vuole ricominciare a lavorare, vuole la sua tecnica a cambiare nome e proporsi con un nome diverso. In questo modo si ha in qualche modo riverginato una sua fama, e dopo un po' di tempo si separa dal marito, però ma inaspettatamente ne conserva il cognome per riconnettersi all'esperienza di anni prima, in cui invece era molto famosa, e in qualche modo dicendo: ok, ormai è passato un po' di tempo da questo processo, ho orgoglio di quello che ho fatto, non provo minimamente vergogna per quello che è successo, riprendo il cognome del marito ma scelgo un nome diverso. E dietro a questo nome c'è un ulteriore mistero che non svegliamo per non svelare tutto, ma è pazzesco in che modo il semplice cercare un nome che viene sempre in qualche modo sottratto, e questo succede per quasi tutti i capitoli, poi porta a galla delle cose super interessanti. Io vorrei tornare un attimo al discorso sulla moralità che hai fatto un attimo fa, perché effettivamente questi personaggi non sono tutti personaggi morali, diciamo, cioè moralmente connotati in modo positivo, anzi, cioè, sono appunto donne che usano l'inganno, che non si comportano moralmente bene, diciamo, ma per emanciparsi da una condizione che è strutturalmente invece ingiusta nei loro confronti. E quindi, da qua la domanda: esiste un inganno emancipatorio? Cioè, l'inganno può essere qualcosa che, come dire, può essere usato per seguire ciò che è giusto, ciò che consideriamo giusto? Come ti poni moralmente rispetto a questa cosa? Questa è un po' la riflessione al centro di questo lavoro. Io per anni, faccio una confessione, sono stato uno sbirro della scienza. Lavoravo nel CICAP, che è un comitato che si occupa di smontare i fenomeni paranormali, ed era un po' il buttafuori che decideva chi poteva entrare e chi invece doveva essere respinto, perché utilizzava dei trucchi, e quindi le cose che faceva non erano frutto di vera magia, ma c'era un elastico nascosto, c'era un filo invisibile, c'era la carta nella manica, insomma tutti i trucchi, il magnete, la calamita, insomma. Ed ero quello che, facendo l'illusionista, perché io nasco come illusionista, la scrittura è soltanto un tentativo di restituire quello che capisco facendo il mago, ero quello che faceva il buttafuori, decideva chi poteva entrare e chi no, tenendo quella porta ben chiusa e facendo entrare solo quelli veri. E in teoria l'idea è che la scienza non abbia ancora fatto entrare nessuno di quelli che operano magia, perché il sospetto del CICAP è che non esista la magia, che siano tutti inganni, tutte frodi, eccetera. Eppure, nonostante già l'illuminismo aveva tentato di fare la stessa cosa, di espellere l'esperienza magica e di assegnarle una caratteristica, diciamo così, di se credi alla magia sei un primitivo, sei una persona primitiva, a un certo punto mi sono reso conto che ero un po' a disagio con questo atteggiamento di teniamo la porta chiusa. Perché? Perché, come dicevi, non viviamo in un mondo pacificato, viviamo in un mondo conflittuale, dove ci sono classi sociali, dove la ricchezza non è distribuita in modo equo, dove il rapporto tra i generi è totalmente sbilanciato, dove la comunità LGBTQ deve patire anche solo per restare in vita le cose più incredibili. Per cui, in una società non pacificata, fare i poliziotti può essere non la cosa più eccitante da fare. Mi sono reso conto che storicamente le classi subalterne spesso hanno utilizzato contro un potere che era molto violento e molto oppressivo anche le armi della magia. Io l'idea di smettere di fare lo sbirro, ma invece guardare senza un rifiuto, ma anche senza giudizio, queste esperienze mi ha portato a incontrare persone assolutamente eticamente discutibili, ma che in qualche modo sono riuscite, accusate sempre di riportare l'umanità al passato, in realtà stavano vedendo il futuro, perché una persona come la Sibilla moderna, che utilizza l'arma della veggenza con tutti gli inganni connessi a questo, perché lei era una che ti spiava nella borsetta per capire che cosa dirti nello studio e fingere di ricevere queste visioni dalla dimensione magnetica, tutto questo può essere utilizzato invece per immaginare futuri che ancora non abbiamo oggi, se no non continueremmo la lotta, se no le femministe avrebbero già vinto, l'idea appunto che ci sia questo grosso contrasto tra quello che dicono gli sbirri, cioè voi siete il passato, e invece quello che con l'inganno costoro ci dicono, e cioè possiamo credere, immaginare e lavorare per qualcosa invece che ancora non c'è, che invece è un avvenire verso cui tutti vogliamo andare. Infatti è molto interessante nel libro l'analisi, come dire, sul classismo dello scientismo verso chi crede nella magia, diciamo, verso chi usa la magia come strumento di autodeterminazione o di lotta. E c'è un punto in cui dice, a un certo punto, mentre la manager in depressione postpartum che si rivolge alla psicologa passa per una donna matura e responsabile, la ragazza madre disoccupata che si indebita per un talismano è un'imperdonabile ingenua che deve alla dabbenaggine la mancanza di un lavoro. Quindi diciamo che c'è una dinamica di classismo molto forte in questo senso, che tu evidenzi molto bene. Tra l'altro, in questo passaggio, un attimo prima, parla invece del rapporto, che a me è interessato molto perché, diciamo, mi interesso di salute mentale, tra magia e psicoterapia. E anche questa è una cosa che ho trovato molto interessante, anche perché la Sibilla moderna, tu spieghi molto bene che lei faceva delle dimostrazioni pubbliche per tirare su un po' di soldi, cioè, e per aumentare, diciamo, la sua fama, però poi effettivamente quello che faceva lei erano i consulti privati, ed era un po' una, possiamo definirla una sorta di psicoterapeuta ante litteram. Se vogliamo attirarci l'odio da parte di chi crede nella scienza, e giustamente ci crede, ma che ha in qualche modo la scienza come unico riferimento, sì, perché le sue funzioni erano quelle della psicoterapia, in un'epoca in cui la psicoterapia non esisteva ancora. Nel libro faccio un esercizio, io inizialmente descrivo quello che succedeva lì, con ancora l'attitudine dello sbirro di una volta, in cui dico: guardate questa che furbacchiona che spiava nelle borse, faceva ingegneria sociale nell'anticamera in modo da sapere quali erano le preoccupazioni di chi la consultava per poi rivelargliele, eccetera. Poi mi fermo e dico: un momento, però io sto lavorando col pilota automatico, sto utilizzando le stesse retoriche di tanta cronaca che si trova purtroppo in Italia, in cui tutti questi fenomeni sono automaticamente da considerare delle truffe da reprimere assolutamente, a meno che non arrivino a livelli altissimi del potere, allora in quel caso va bene tutto. E provo a riscrivere lo stesso paragrafo con un linguaggio invece, lavorando sul linguaggio, cercando di essere meno aggressivo, e mi sono reso conto che da parte di noi maschi un modo per menare le donne è anche descriverle con delle parole molto ingiuriose. Mentre per esempio nel mondo del sex work c'è un movimento sex positive che cerca di staccare dalla figura della sex worker lo stigma sociale, per cui se sei una sex worker sei assolutamente una paria, eccetera. Quindi c'è un tentativo di recuperare una qualche dignità a quel lavoro e a quel tipo di attività. Non esiste minimamente un'attività psychic positive, perché la scienza da questo punto di vista ha trionfato, e quindi nel libro butto lì la provocazione e mi dico: ma se fosse anche ora di recuperare, di decolonizzare un po' il nostro sguardo e smettere di guardare con un atteggiamento di sufficienza chi si affida a questi strumenti, e cerchiamo invece di capire perché intanto ci si affidi a quelli e quali soluzioni collettive e condivise possiamo proporre al posto di questo. Io in tante campegge oppure incontri di movimento ho visto in un angolino chi legge i tarocchi, e io trovo meraviglioso, perché comunque il tarocco continuerà sempre a essere, anche agli occhi di chi crede alla scienza, uno strumento come le macchie di Rorschach che vengono regolarmente impiegate dagli psicologi, perché è uno strumento proiettivo utilissimo in cui la persona che ha bisogno di parlare di sé vede delle cose, si racconta, e quindi una scusa semplicemente per andare a fondo su questioni che magari invece un semplice freddo test non porterebbe a galla. Quindi no, sono contento che tu abbia scelto questo passaggio, perché poi tra l'altro un'altra cosa che stavo pensando sempre in riferimento al rapporto tra magia e psicoterapia, diciamo, è il ruolo maieutico che hanno entrambe, è la cosa che hai detto tu, cioè nel senso che chi va cercando una risposta, come dire, già, cioè, come, chi si riferisce ad un mago piuttosto che a uno psicoterapeuta, in realtà va già cercando una risposta, e semplicemente, come dire, la persona che hai davanti ti mette a posto le carte, no? Sul tavolo, ti mette a posto le carte sul tavolo, quindi mi piaceva, diciamo, molto questa cosa. Aggiungo che prima cercavo di separare la scienza dalla non scienza, credendo che lì fosse il punto chiave. In realtà il punto chiave è quello che hai detto prima, cioè un rapporto tra chi legge le carte, per fare un esempio, e chi se le fa leggere può essere emancipante o in qualche modo di dominio. Se io, la persona che ho davanti, cerco di legarla a me e di far dipendere dai miei oracoli, eccetera, la sua vita, non sto creando un rapporto emancipante. Ed è una dinamica che può esserci tra psicoterapeuta e cliente, e tra astrologa e cliente. Essere emancipanti in entrambi i casi vuol dire consegnare alla persona gli strumenti per andare avanti da sé, per cui è lì secondo me il nucleo e non tanto in questo dibattito tra quello che è scienza e non scienza. Certo. E io non so se passare a, non so quanto tempo abbiamo, non so se passare ad un'altra storia o magari aprire a delle domande, se ci sono delle domande negli interventi, non so quanto tempo abbiamo, quanto vogliamo? Autogestione e sonnambulismo. Ok, vabbè, direi magari se qualcuno, qualcuna delle domande, degli interventi, delle curiosità, possiamo intanto cominciare ad aprirne, e se no magari passiamo ad un'altra storia. Passiamo ad un'altra storia. Ok, allora io direi di parlare un po' della donna invisibile. Va bene. E ci vuoi raccontare un po' chi è? Ogni capitolo è incentrato su una donna e segue un viaggio che ho fatto da Torino a Orléans, passando per Belmonte, Lione, Montpellier e Tolosa. E l'ultimo capitolo è quello della donna invisibile, e io che sono della generazione dei primi videogiochi, ovviamente le metafore che mi vengono sono videoludiche, quindi chi non frequenta la cosa... Nei tanti videogiochi ci sono un po' di livelli, nel mio caso sono 5 livelli di difficoltà, ognuno più o meno ti insegna a fare delle cose, e l'ultimo livello c'è il mega mostro in cui devi mettere a frutto tutto quello che avevi imparato nelle prime 5 livelli, perché è la sfida finale. A me è successo lo stesso a Orléans. Orléans ho trovato una personaggia, in realtà due, che si trovano ad affrontare tutte le difficoltà che hanno affrontato tutte le prime 5 in una maniera al cubo, e quindi devono mettere a frutto tutte le tecniche che hanno usato le prime 5, quindi ciascuna delle 5 ha dei problemi da superare di ogni tipo, anche pesanti. La sesta è veramente una roba indicibile, tant'è che non ci spingeremo troppo nel racconto per non spoilerare i passaggi più inquietanti di tutti. Vi basti pensare che nell'Ottocento, e non è una figura, immagini, è proprio 1800, quando a Parigi non si parlava di 800 perché si parlava di anni nel conteggio rivoluzionario, quindi si sono persi i millennium bug, beati loro, cosa che non sarebbe poi risuccessa nel 2000, si poteva andare a vedere, si poteva assistere all'illusione della donna invisibile. Si entrava in una stanza come questa, al centro c'era una sfera di vetro da cui uscivano 4 cornetti acustici, dentro cui il proprietario dell'attrazione di questo baraccone giurava di aver chiuso la moglie, dopo averla resa invisibile. Quindi puro spirito chiuso dentro una sfera di vetro appesa, non accessibile semplicemente perché c'erano dei tralicci che la proteggevano. La gente entrava in questa stanza vuota, dialogava con la sfera, e la sfera rispondeva attraverso una voce disincarnata che usciva da questa sfera, descrivendo quello che avveniva, per cui tu sei vestita di nero, tu sei vestito di blu, e quindi era chiaro che questa donna era lì, era presente, non era indifferita, insomma in un'epoca in cui non esisteva neanche il concetto di rete differita. Questa era l'illusione della donna invisibile, ce n'erano 3 esemplari diversi a Parigi, in indirizzi diversi, per cui mi sono fatto anche il giro dei vari posti di Parigi dove erano installate le varie, ho trovato le locandine e tutto. Naturalmente questa era la storia che doveva essere propinata al pubblico. La verità è che la donna davvero invisibile non era, era chiusa dentro un armadio strettissimo sul lato della stanza, murata praticamente, doveva passare intere giornate appoggiata sulle ginocchia su un cuscino, e sbirciando tramite la serratura e parlando dentro un tubo che portava la voce attraverso la transenna, che era lì sì per tenere lontane le persone ma anche per portare il suono, e quindi lei poteva discorrere con i presenti chiusa in uno spazio assolutamente angusto, in cui immagino non poteva ovviamente stare un tigre, respirare troppo fondo, figuriamoci fare pipì, immagino durante i giorni delle mestruazioni che cosa fosse la vita lì dentro. Perché? Perché il marito potesse ricevere gli applausi per questa dimostrazione che andava avanti dei mesi. Quindi la vita terrificante delle donne invisibili la ricostruisce per esempio Hoffman in un suo racconto, leggendolo in Hoffman, chiunque è convinto, beh, Hoffman era un romanziere, ce la sta un po' caricando. No, ci sono documenti, e trovare i nomi è complicatissimo, ho trovato anche il nome di una di queste, e scoprendo anche che la sua figliastra, qualche anno dopo, subirà la sua stessa pena, ma a un livello superiore, perché da un giorno all'altro sparisce, diventa davvero invisibile, nessuno la trova più, viene data per morta alla famiglia, e lei si risveglia in un manicomio. Come nel racconto di Kafka, non ha idea di che cosa l'abbia portata lì, nessuno glielo sa spiegare, lei farà una via crucis di 6 manicomi, e io dovevo scegliere in quale dei 6 andarla a trovare, ho scelto l'ultimo che è Orléans, e quindi in qualche modo c'è questo specchio atroce tra la mia esperienza e la sua, perché io faccio queste 6 tappe con l'aria condizionata, lei le ha fatte dentro delle celle, delle carrozze cellate, con e il suo diario in cui racconta questa cosa è pieno dei peggiori orrori di quello che può succedere in un manicomio. Perché diventa invisibile? Che cosa l'ha portata lì? Non vi anticipo naturalmente la risoluzione di questa cosa, ma vi anticipo che è collegata all'esperienza teatrale della donna invisibile, perché il personaggio chiave tra le due esperienze è il padre, che anni prima teneva chiusa la moglie e poi in qualche modo finirà a tenere imprigionata sua figlia in un manicomio per tanti anni. La cosa naturalmente che ci aspettiamo tutte e tutti è che trovi un modo per liberarsi e che questo modo in qualche modo metta a frutto tutto quello che ricostruiscono le donne nei capitoli prima. A questo punto mi fermo un attimo. Io sono pessimo a inventare storie, non potrò mai fare romanziere. Ho il sollievo che occupandomi di storia trovo delle storie così assurde che nessun editor può dirmi no, qua devi abbassare un po' perché nessuno ci crederebbe, semplicemente perché sono storie vere. E quindi troverete qui storie incredibili che in un romanzo non accettereste, ma che qui diventano in qualche modo accettabili perché sono vere. Con tutti i documenti in nota a piè pagina, poiché non tutti i documenti ci stavano, ho realizzato anche, per chi veramente ne vuole, non ne ha abbastanza del libro principale, un secondo volume allegato che, insomma, di fianco in, non sfigura, ma è un'autoproduzione, l'ho chiamato il dossier, con tutti i documenti che ho utilizzato per fare questa ricerca, per cui a chi non basta il racconto che ne ho fatto io, qua ci sono tutte le fonti primarie, con anche tutte le illustrazioni, prima pagina, le locandine, eccetera. Quindi chi non è abbastanza del primo trova il secondo. Questa è edizione limitata, quindi qui lo trovate, online è un po' più difficile, sparirà prima di questo, quindi chi è interessato se lo recuperi. L'altra cosa assurdissima è che questa storia porterà a un'elaborazione di un complotto che fa specchio al moderno QAnon. Chi segue un po' le faccende contemporanee si chiederà che c'entra QAnon con questo libro. Io Orleano a un certo punto mi fermo, alzo la cornetta e telefono ad un autore del libro La Q di Complotto, che vedete lì, edizione Allegre, e gli dico: Roberto, mi devi dare una mano per orientarmi perché questa storia è un casino. E insieme cerchiamo di capire che cosa ci sta insegnando una storia dell'Ottocento che evolverà e finirà dentro QAnon oggi. Ed è un complotto grazie al quale questa donna cercherà di liberarsi. Ma infatti l'ultimo capitolo è pazzesco, perché dentro c'è tutto, c'è l'antipsichiatria, c'è la teoria del complotto, c'è tutto, veramente, c'è l'invisibilità dei corpi delle donne, c'è il gaslighting. Il gaslighting, cioè veramente è tutto, è incredibile. E devo dire che la capacità che hai tu di tenere, cioè io sono stata incollata a questo libro per 3 giorni, non riuscivo neanche ad andare in bagno, me lo sono divorato, perché è, vabbè scusate, mi sono fatta prendere dall'emozione perché è veramente fighissimo questo libro. Però vorrei tornare un secondo a il tema del manicomio, perché diciamo che il primo e l'ultimo capitolo sono i capitoli che mi sono personalmente risuonati di più per quella che sono i miei interessi. Il primo parla del cita diciamo il rapporto tra magia e psicoterapia, e l'ultimo invece propone un'analisi antipsichiatrica e antimanicomiale usando il tema dell'illusionismo e della magia. E tu a un certo punto dici: il manicomio è un gioco di prestigio, no? Quindi non solo lei usa un gioco di prestigio, diciamo, per emanciparsi da una condizione di oppressione, ma la struttura opprimente stessa in realtà è un gioco di prestigio. E quindi questo ci riporta alla cosa che stavamo dicendo prima, su in realtà la magia la usiamo noi in basso o la usano anche loro in alto? Chi è che fa i giochi di prestigio? Io ho trovato assolutamente interessante la battuta con cui sono stato accolto per la prima volta a un circolo di illusionisti. Mi hanno detto: qua c'è una regola sola, non si parla di politica. E a me sembrava così ovvio che mi sono detto: perché dirmelo? E io nei successivi 20 anni non ho fatto altro che disobbedire a questa regola, perché ho capito quanto l'illusionismo invece abbia a che fare con la vita. Michel Foucault, in uno dei libri in cui parla della storia della psichiatria ottocentesca, racconta di una dinamica tra il direttore e uno dei pazienti. Questo paziente si sente l'unico uomo, l'unico vero maschio del mondo. Il direttore, per sfidare questa credenza, dice: vediamo chi ce l'ha più lungo, in sostanza gli fa nascondere nella zuppa del purgante, per cui questo tizio, senza saperlo di essere stato avvelenato con un gioco di prestigio, passa una notte d'inferno. Il giorno dopo il direttore lo avvicina e fa: ma la vedo devastato, certo che lei è proprio una femminuccia, in qualche modo riattivando quel gioco orribile tra maschi, per cui chi è il più forte tra i due, tu sei la femminuccia, condividono tra di loro un immaginario assolutamente becero. Ma qui c'è un classico esempio di illusionismo utilizzato dal potere per schiacciare e per manipolare la percezione e convincere di essere meno virile di quanto dica questo tizio. Nessuno dei due vince naturalmente, però evidenzia in che modo il potere non si fa nessuno scrupolo a utilizzare la magia contro di noi, la magia nera. Mi chiedo se noi dove possiamo essere schizzinosi dal basso e dire: no, invece noi siamo puliti e vogliamo solo rispettare le regole fino in fondo. Quello che fa Ersilia, la protagonista di questo capitolo, è dire: io metto a frutto quello che mi ha insegnato mio padre, illusionista, per tanti anni, e cerco dal basso di agire una contromagia. Preparando questo incontro avevano detto bianca, preferisco rossa, secondo me. La magia rossa mi sembra che abbia qualcosa di più, non so, vitale. Vero? Per cui di agire una magia rossa di segno opposto contro il potere che invece la utilizza dall'alto. Per cui credo che questo tema che hai sollevato sia precisissimo e colga bene il punto di questo capitolo e in generale le strategie che cerco di portare a galla qui, in tutti i capitoli in generale, perché tutte tentano di opporre alla magia che arriva dall'alto del potere una forma di magia invece che arriva dal basso. Però parlando di magia emancipante, e qua ci ricolleghiamo alle ultime pagine del libro in cui appunto tu fai questa telefonata con Fu Minguno e parlate del tema del complotto, mi viene anche da chiedermi, ma non è che questa magia, come dire, l'attenzione per il magismo, per una critica verso il razionalismo e lo scientismo, magari ce la stanno rubando la destra? Non è una cosa a cui dovremmo fare attenzione? Beh, storicamente la sinistra è associata alla razionalità, al comunismo scientifico e a tutto quello che esula da queste categorie è la roba che fanno i fascisti. E quindi lasciamola loro. Questo è, lo trovo pericoloso, perché in realtà l'immaginario è qualcosa che tu stessa dici nella prima puntata di Cassandra. Che cosa possiamo fare se non lavorare sull'immaginario? Non potremo fare e portare alla luce nulla che prima non abbiamo immaginato. Per cui se il nostro immaginario è piccolo, è chiaro che anche nell'esistenza quotidiana singola gli orizzonti a cui potremmo mirare sono piccoli. Più sono grandi e più in qualche modo ce li ampliamo a vicenda lavorando sull'immaginario, e più possiamo mirare a qualcosa di più. La magia può essere quello spazio in cui succede qualcosa di impossibile, inaspettato, di sorprendente, e quindi mi aspetto che c'era una soluzione laddove invece vedevo solo un problema. Ecco perché una qualunque situazione di collettivo è più potente rispetto a una situazione individuale, perché una delle lezioni più belle che io ho ricevuto nell'ambito della creatività è che un ottimo modo, un buon modo per avere una buona idea è di averne tante, e per averne tante bisogna essere in tanti in una sala come qui. Quindi l'idea di essere in tanti a parlare di questo è anche un modo per capire delle cose che altrimenti da soli non saremmo riusciti, e portare in questa direzione il dialogo sulla magia è un tentativo di non lasciarlo in mano soltanto alle forze reazionarie, che apparentemente a lungo sono state un po' le ne hanno avuto il monopolio. Io accoglierei questo invito al pensiero collettivo, per rinnovare l'invito se qualcuno o qualcuna vuole fare commenti o ha qualche domanda, qualche curiosità sul libro, se c'è qualcosa che volete approfondire. Vi vedo pensierosi, pensierose. Se sentite il momento di terrore, io non parlerò mai, penso che rimarrà pensierosi. Perché altrimenti abbiamo dei dadi per tirare a sorte di cosa parlare. Io davvero un bussolotto. Io lascio un attimo, ma se... Come funziona? Cioè, in che senso usiamo i dadi per decidere come fare? Allora, le sonnambule sono sei, no? E quindi ho pensato, porto questo pendolino, che è un pendolino con i nomi delle sei sonnambule, lo facciamo andare di qua e di là e vediamo dove si ferma. In realtà è molto facile fare hacking di questo strumento, perché basta nascondere una calamita in uno di questi sei, quindi è molto sospetto come oggetto. Quindi non utilizziamo un oggetto così sospetto. No, utilizziamo dei dadi, due sono troppi, utilizziamo uno, guarda, prendilo tu, lancialo qui dentro. Che numero è venuto? 5. Perfetto, 5. Allora parliamo della numero 5, che è la Prudence. Perfetto. Tra l'altro è stata lei a volerlo, perché mi ha fatto usare un dado con tutti i 5, per cui questa è la classica cosa che fa Prudence. Prudence faceva esattamente questo a teatro, lo faceva regolarmente. Io non so se qualcuno conosce questo oggetto. Non ci sono nerd in sala, quindi siamo salvi. Neanche io lo conoscevo. Tu sì, spiegaci che cos'è. È una citazione One Piece. Okay. È una lumaca usata tipo come un telefono. Ora dite, che cosa c'entra questo con il... Funziona. Allora, all'epoca funzionava. Voi vi chiederete in che modo questo oggetto ha a che fare con questo libro che parla di sonnambule tra il 7 e 800. Arriva da lì. Nel 1850 a Parigi un tizio chiamato Benoit brevetta il telegrafo a lumache, scoprendo che il magnetismo animale consente di inviare messaggi nello spazio, wireless. È stato prima della radio. Che cosa si faceva? Si prendevano due lumache, le si faceva copiare, poi le si separava, quelle due venivano contrassegnate con la lettera A, accarezzando qui una delle due lumache, poiché le due si erano scambiate del fluido magnetico, accarezzando la lumaca di destra, quella di sinistra vibrava all'unisono nello stesso istante, perché si era creato questo legame a distanza, come nella quantistica moderna del fenomeno dell'entanglement, per cui in qualche modo era possibile far vibrare la lumaca laggiù accarezzando quella che aveva fatto l'amore con lei laggiù. Per cui che cosa fa Benoit? Prende 21 coppie di lumache, le fa copiare tutte quante, poi le contrassegna coppie A, B, C, eccetera, le installa in due grosse bussole con 21 allocazioni con delle lettere, e a quel punto spiega ai giornalisti a Parigi che, spedendone una a New York e tenendone una a Parigi, è possibile scriversi con una forma di telegrafo accarezzando le lettere della parola da inviare e facendo vedere che laggiù arriverà la parola corretta. Per cui dimostra in una sala con un muro in mezzo che si può spedire una parola da una stanza all'altra. C'è una lieve imprecisione di cui racconto, una lettera salta, ma come si capisce il senso della parola. E dopodiché, incassati i soldi, sparisce, perché naturalmente era una truffa, era bellissima come immagine, ma naturalmente le lumache non si comportano così. Ma l'idea era talmente sul filo del credibile che per mesi sui giornali, da un lato gli scettici diranno: ma che credete a questa stupidaggine, siete preistorici, eccetera, e altri dicevano: no, perché potrebbe essere, esistono fenomeni come la calamita che funziona a distanza. Insomma, al centro di questo dibattito Prudence Bernard, la protagonista del capitolo 5 del libro, intuisce che la gente vuole vedere una cosa che non è più visibile a Parigi e dice: la mettiamo in scena io e mio marito. Per cui lei e suo marito, in uno del Salon Lassaigne, che è sotto il passage Jouffroy, dove ho fatto una delle mie puntate della mia webserie Mesmerin Pillole, la trovate facilmente, una delle ultime puntate, mettono in scena questo numero a teatro, per cui dicono: io e mio marito, naturalmente essendo sposati, pratichiamo l'amore ogni notte, quindi si è creato tra noi questo legame, possiamo trasmetterci utilizzando lo stesso contatto le lettere, i numeri, eccetera, e presentano numeri di trasmissione del pensiero simili a quelle che avete visto prima fatti con Denise. Per cui la telepatia escargotica era il numero di punta dello spettacolo di Lassaigne. Negli anni 80 i creatori di One Piece recuperano questa storia e dicono: beh, lumaca e telefono è una cosa irresistibile, nessuno coglierà la citazione, figuriamoci chi andrà a recuperare questa storia, e creano questi personaggi di cui io ho recuperato una ricostruzione che nessuno oggi al mondo può più collegare a questa storia. Io sono un po' fissato da quando una volta Silvan mi ha detto: io quando leggo un tuo libro scopro sempre cose che non conoscevo prima. Mi ha riempito d'orgoglio e ho capito il trucco. Io cerco di raccontare solo storie che non esistano su Wikipedia, quindi voi non troverete nessuna, il mese prossimo forse sì, ma nessuna delle storie che sono qui sono su Wikipedia. Me lo sono dato come regola perché volevo stupire chi ormai le ha sentite tutte, e questa penso che non l'abbiate mai sentita prima. Sì, oppure riprendi, come nel caso dell'ultimo capitolo, prendi delle storie che più o meno si possono trovare, ma nessuno aveva mai pensato di collegare, sebbene le protagoniste siano parenti, siano parte della stessa famiglia, siano persone che si conoscono. Quindi anche una cosa molto bella di questo libro è proprio, come dire, il percorso che fai, la ricerca che fai, il viaggio che fai nel mettere insieme tutte queste storie. Questi, ci sono anche un sacco di simbolismi che ritornano, di luoghi che ritornano. Adesso diciamo quella cosa di Gramsci. Però è bellissimo perché in questo libro ci sono tutte, cioè, come dire, si vede come scavi nelle zolle della terra per andare a cercare tutte queste storie e metterle tutte insieme. Quindi alla fine viene fuori un mosaico che è incredibile. Diciamo questa cosa di Gramsci che mi è piaciuta. Allora, vi ho fatto vedere prima l'annuncio della Sibilla Moderna sulla Gazzetta Piemontese di oggi, insomma, di oggi. Del 52, 1852. C'è l'indirizzo naturalmente dove andare a chiedere i consulti di magnetismo della Sibilla Moderna, ed è via dell'Arcivescovato 7, per cui ci si può andare e ci si imbatte in un'immagine di Gramsci, perché lì Gramsci ha scritto La città futura, cioè un libro che parla di futuro, e lì ha scritto la frase forse più famosa, il passaggio più famoso di Gramsci: io odio gli indifferenti. E io mi sono detto: evidentemente quel luogo contiene qualcosa, perché se una donna di Parigi trova lì lo spazio dove vedere il futuro, e poi qualche anno dopo, una cinquantina d'anni dopo, Gramsci lo utilizza come punto da cui osservare il futuro, descrivere un futuro che è quello che noi vogliamo, insomma, e lo racconta, e poi c'è un passaggio meraviglioso in cui dice che i logici dicono che queste robe non si raggiungeranno mai perché dovrei convincere prima lui, poi lei, poi lui, eccetera, e ci metteremo una vita e intanto gli ultimi saranno morti. Lui dice no, dobbiamo immaginare soluzioni che infiammino, e quindi all'improvviso un milione di persone siano convinti di questo. Per cui questo fuoco di cui parla Gramsci è naturalmente la magia, cioè ci vogliono delle soluzioni magiche, alternative, sorprendenti, devianti. E questa cosa di Gramsci mi ha poi colpito perché ci siamo seduti per prendere un caffè insieme. Ah, dove abiti? Lì, ma davvero, stessa via, stesso numero, stesso piano. Lei praticamente vive dove io ho vissuto fino al 2008, nello stesso identico appartamento, stessa scala, stesso piano. Ci sono queste coincidenze assurde che come minimo vanno isolate per vedere se c'è altro. Un'altra coincidenza incredibile è, visto che siete a Torino, domani lo farete, se non più tardi, se andate in piazzetta Maria Teresa, vicino a Via della Rocca, c'è un albero su cui si è aperto un occhio. Lì lavorava la Sibilla Moderna, che a Torino ha deciso di piantarla lì con le scene, con il palcoscenico. Faccio una lunghissima riflessione sul perché abbandonare le scene proprio il giorno del mio compleanno, del 1853, a Torino. Che succede? E infatti divento pazzo nel primo capitolo dicendo no, cioè, mi sta dicendo qualcosa. E quando lei se ne va, viene potato evidentemente un ramo, perché lì si apre un occhio, c'è un occhio enorme, di cui c'è la fotografia qui e anche nel dossier, che guarda ancora oggi la piazza e che guarda la statua maschia di Guglielmo Pepe, fiero, tronfio, macio, che in quel modo minaccia la piazza dicendo questo è il maschile, questo è... Ed è bellissimo perché si guarda una vicenda, cioè lui guarda col cannone, lei lo riguarda con quest'occhio invece innocente, anche un po' drammatico perché è un taglio, quindi io cerco sempre se c'è una mezza lacrima, perché lei si limitava a vedere, e io adoro pensare che lì in questa piazza ci sia in qualche modo un doppio monumento al mentalismo, cioè il mentalismo può essere messo in scena come una cosa macia, dura, potente, un'esibizione di forza muscolare come il cannone, o forse esiste un modo diverso di concepirlo, che è quello che ho cercato di imparare o che cerco di capire, mi viene ispirato dalla Sibilla Moderna. Tra l'altro non so se è chiaro a tutti e tutte quando si parla della differenza fra illusionismo e mentalismo, che è una cosa che in realtà non abbiamo detto, che sarebbe in realtà importante dire nell'ambito di questa presentazione. Quindi ci puoi spiegare un po' la differenza? Allora, la differenza è meramente linguistica, perché quello che avete visto prima con Denise è un numero di illusionismo, è un gioco di prestigio, ma io l'ho presentato nella cornice narrativa retorica del mentalismo, quindi sembra vero, e qualcuno può immaginare che quella roba lì sia possibile, sia avvenuta, e che in qualche modo il magnetismo apra in Denise il terzo occhio. È una bugia, è un trucco. Quello che ho utilizzato è un trucco da illusionista, ma con una cornice retorica che lo fa sembrare vero. Questa zona, questa area grigia dell'illusionismo in cui le cose sembrano vere, vengono presentate come vere, si chiama mentalismo. È un'area che mi affascina ormai da due decenni, per cui tutto quello che scrivo è sempre soltanto in quell'ambito lì. In questo libro cerco di parlarne a chi non è direttamente interessato a questo argomento, facendo vedere invece quanto siano rilevanti per noi questo tipo di dinamiche, in che modo alcune donne sono riuscite a cavalcare quella zona della credulità per piegarlo a proprio favore. Commenti, domande? No, che noia, però ci fate fare tutto a noi. Vi ho portato un altro souvenir, guarda. Questo qua è il libro della Sibilla Moderna. Questo è il libro che... Sapevo. No, devo sorprendere anche te. Questa è La voce dell'avvenire, il libro che la Sibilla Moderna ha stampato dopo la separazione dal marito a Parigi, firmandosi con il cognome dell'ex marito, stranissimo. Ed è un libro pazzesco perché lei fa il lavoro che tento di fare io, ovvero riconnettere la propria esperienza con il passato. Io, in qualche modo insoddisfatto del presente, perché il presente non mi dà delle prospettive, ho guardato al passato e mi sono chiesto, altri prima di me si sono fatti queste domande, hanno trovato frammenti di risposte. Lei fa lo stesso perché scrive questo libro come grosso leaflet pubblicitario, e lo fa citando Plutarco, Omero, Eschilo, e recuperando tutte le storie delle Sibille del passato. Lei riporta la lettera di uno dei suoi clienti che le dice: ho davvero avuto un figlio come lei diceva, era davvero un maschio come lei aveva visto, sono davvero guarita entro quei 13 giorni che mi aveva previsto, mi è passata la gotta. E subito dopo dice: anche Eschilo in quel tale passo ricorda di quella sonna, quella, non parlo ovviamente di sonnambulismo, di quella veggente che aveva risolto il caso entro questi giorni. E per cui il libro è un continuo salto tra la propria esperienza e il passato, è uno straordinario strumento di self-marketing, di personal branding, si direbbe oggi in termini orrendamente marchettari, ma lei ricolloca tutta la sua esperienza nell'ottica di sono l'ultimo erede di qualcosa che è sempre esistito. E per me è stato molto liberante personalmente come illusionista alla ricerca di storie che siano un po' meno bieche, retrive, scoprire che altre persone si erano poste le mie stesse interrogativi e hanno cercato delle risposte un po' nella loro esperienza e un po' nel passato, perché è quello che fa lei, lei cerca di riconnettere le proprie difficoltà e la propria esperienza è quello che fa con un'antica, dicendo nel passato altre persone hanno affrontato queste cose, hanno messo in scena queste cose, ed è uno strumento di lotta e di self promozione di sé veramente incredibile, e che una donna potesse pubblicare un libro all'epoca vuol dire che aveva i giusti contatti. Un libro su questo anche in particolare, certo. Quindi ti senti, come dire, ti sei sentito un po' meno solo nella tua visione sul mentalismo accompagnato da queste sei donne in questo viaggio? È stato proprio il sollievo che ho provato, perché intanto mi sono reso conto che è un discorso che c'è non soltanto nell'illusionismo, che è una branca che, su cui probabilmente non vi siete mai interrogate o interrogati, perché è quella roba lì che si fa per i bambini che vogliono il palloncino e il fazzoletto che sparisce nel pugno. In realtà questa cosa si presenta tantissimo nel cinema. Uno degli articoli che mi ha più segnato, che ho riportato integralmente nel dossier, cito soltanto qui, è un editoriale di Brit Marling che ha pubblicato sul New York Times, in cui lei è una attrice e sceneggiatrice statunitense che si lamenta del fatto che in tutti i provini le propongono soltanto ruoli femminili inaccettabili. O la donna è la bella donna che muore a pagina 4 del copione, orrendamente uccisa in un horror, oppure è la spalla di una figura maschile fortissima. Quelle che sopravvivono sono donne che esprimono la loro femminilità con dei tratti maschili, supereroine, supersoldate, superspie, eccetera. È come se il cinema non fosse in grado di concepire storie più complesse che raccontano la donna. Lei che si rifiuta di fare tutto questo si è chiesta perché? Perché c'è questa tutta penuria di storie più interessanti che non siano centrate sul maschio? E una delle risposte che propone, io l'ho trovata super illuminante, perché nella magia vale tantissimo, come vale nel cinema e forse anche nella letteratura. Lei dice che come società siamo stati plasmati da decenni e decenni, secoli forse, di storie basate su un unico principio governatore, che è il viaggio dell'eroe. Nel viaggio dell'eroe, come unica struttura narrativa concepibile, c'è qualcosa che innesca l'azione, che crea tutto un percorso in cui c'è un crescere della tensione fino a un grossissimo rilascio della tensione nei momenti della vittoria e poi un crollo netto nel finale in cui tutto si ricompone. E lei dice: questo è il racconto di un orgasmo maschile, questo è la coreografia del piacere del maschio, tutte le storie sono pensate per rispondere a questo bisogno. Come si fa a rompere questo? Forse dobbiamo immaginare storie che siano strutturate su piaceri diversi, su desiderio, sul... E come faccio io maschio farlo quando sono confinato in quel tipo di piacere? Io dove mi giro ho storie che sono pensate per me e quindi devo rivolgermi altrove. Lei stessa dice dove può... Io non ho risposte. Lei fa qualche tentativo, cito anche un suo bel film in cui lei fa la veggente, in cui tenta di mettere in scena una veggente diversa da quella che potrebbe essere definita dal viaggio dell'eroe, e lei dice: secondo me dove scavare sono le comunità LGBT, sono nelle comunità dove le minoranze stanno tentando di trovare una propria voce raccontandosi storie diverse. E quindi questa cosa qui ha pesantemente influenzato la scrittura di queste pagine, perché mi sono reso conto che quel tipo di chiusura riguarda un po' tutte e tutti, perché da quando siamo bambine e bambine ci raccontano quelle storie, le storie quelle sono, per cui se la nostra mente è ristretta è perché le storie in qualche modo sono tutte in quel piccolo recinto. Queste donne in qualche modo mi hanno un po' allargato almeno mi hanno fatto vedere dove si può guardare, dove puntare la pila per cercare cose che non siano ancora mappate. Certo, e tra l'altro c'è un punto, visto che abbiamo parlato di orgasmo maschile, parliamo anche di orgasmo femminile, perché c'è un punto del libro in cui tu appunto parli, allora c'è il capitolo che si chiama La psiconauta, che racconta di questa donna che viene, che viene magnetizzata per permettere ad un gruppo di massoni di vedere l'aldilà, quindi di vedere il paradiso, il purgatorio, il paradiso e il purgatorio. E a un certo punto però questa donna viene accesa e spenta come se fosse una radio. Tu racconti, usi proprio questa parola, una radio, cioè lei viene attivata e disattivata. Quando viene attivata racconta tutto quello che vede nel paradiso, nel purgatorio, e poi viene spenta e torna ad essere la donna, come dire, non più divinizzata per le sue capacità di sibilla, di veggente, ma torna ad essere la donna oppressa dal patriarcato che ha una vita di merda in quel periodo storico, anche adesso. E a un certo punto tu dici, però lei si rende conto che non vuole più essere accesa e spenta, ma vuole essere in grado di accendere e spegnere da sola il suo interruttore. E tu fai un paragone con l'orgasmo femminile. Il punto è che lei ci riesce. Riesce a intanto a montare queste storie, come si costruiscono le serie televisive, con dei climax, e sul finale della storia domani vi dico come va a finire, per cui questi sono costretti a rinvitarla. Poi è stufa di venire a raggiungere a piedi il luogo, allora inizia a dire che gli spiriti pretendono che lei venga accompagnata in carrozza, e questi obbediscono perché non possono assolutamente perdersi la prossima puntata. Ed è strepitoso la capacità con cui questa povera donna riesce a mettere in scacco questi nobili uomini di Lione, arrivando al culmine di decidere che dal giorno dopo lei si auto-ipnotizzerà e non avrà più bisogno di loro. Questa rivelazione per loro ha lo stesso effetto squassante che per noi maschi l'idea che la donna possa darsi piacere da sé. L'arrivo sul mercato di vibratori, per esempio, ha sconvolto il maschile, perché l'idea che le donne potessero fare da sé e noi non servissimo più a quello e la nostra bacchetta magica improvvisamente non fosse più onnipotente è stato piuttosto complicato. Questo mi consente, cioè in qualche modo mi costringe a fare i conti con la mia mascolinità e chiedermi: quindi forse i poteri come li abbiamo distribuiti finora non funzionano più tanto? Forse dobbiamo mettere in discussione? Perché lei è stata chiarissima: io non ho più bisogno di voi. Il che non le impedisce di sposarsi. Si sposa col nipote di uno di questi qui, che ovviamente va su tutte le furie, perché questa non poteva più dire per una nuora di dire peste corna. Quello che arriva a fare è cancellare il suo nome da tutti i quaderni in cui aveva trascritto tutte queste visioni dell'aldilà, perché la sua idea era di fare un Atlante del purgatorio e del paradiso. E infatti a Lione ho trovato questa meravigliosa pagina che riproduco, con questa rigaccia nervosissima di uomini che non possono accettare questo gesto di indipendenza che arriva da una donna che improvvisamente vede più di loro fuori dal loro controllo, perché non è più controllabile. E quindi in qualche modo isolo una immagine mistica, magica, per farne vedere il portato simbolico che ha con sé. Ma infatti questa idea che le donne sono portatrici di poteri magici è molto interessante, perché come dire, da un lato c'è la divinizzazione della donna magica, della donna che ha dei poteri che l'uomo non ha, dall'altro invece però c'è la violenta, come dire, smania di controllo e di repressione di questo potere. E diciamo, questo forse è il tema portante non solo del libro, ma anche dei temi di cui tu ti occupi in generale, con il documentario che hai fatto, per esempio, insomma, uno dei temi di cui ti occupi di più, che c'è proprio questa dicotomia, no? Della donna come qualcosa che viene divinizzata e poi invece subito controllata e come dire, per esempio, non so, nei giochi di illusionismo, segata in due piuttosto che inondata di coltelli, piuttosto che così. Quindi, insomma, è interessante perché c'è questa dicotomia nel ruolo femminile rispetto alla magia. Ma non saprei, sono molto punk. Non saprei bene se vogliamo andare avanti, se abbiamo, hai qualcosa da farci vedere? Questa se volete ritiriamo il dado. Allora, 5. Una cosa che Prudence, che mi costa di caso, ho voluto... faceva era costantemente vegliare sul dibattito scientifico per fare qualcosa che spiazzasse, per cui ogni volta che lei metteva in scena qualcosa, naturalmente i giornali la attaccavano dicendo: eh no, hai usato quel trucco, e lei era già pronta nella tappa successiva a usare un trucco diverso. Per cui vi faccio un esempio: lei usava delle gocce di olio spalmate sulle tempie, perché quando veniva bendata la benda cadeva leggermente e le consentiva di vedere. Quando questa cosa viene svelata, passa a una benda così alta che è impossibile far scivolare, perché è evidente che non può scivolare né in alto né in basso. Allora i giornali ci mettono un po' a capire che questa benda non è completamente opaca. Quando lo svelano, lei è già pronta, arriva con un sacchetto in mano in teatro, che spiazza chi era pronto col giornale a dire: tu userai la benda truccata, si fa spalmare sulla faccia del fango, della creta, e quindi viene essiccata sul momento, e lei ha questa maschera di fango dura che quindi non... altro che la benda, impossibile vederci attraverso, e riesce sempre a alzare il tiro. Per cui c'è questa rincorsa tra guardie e ladri divertentissima, tra gli sbirri come me dell'epoca, che cerca di dimostrare che la magia non esiste, e lei che ogni volta dice: e invece c'è qualcosa che sfugge la tua logica. Questo però la sfugge. Il clou, secondo me, a parte la lumaca che trovo strepitosa come immaginario, è quella del busto magnetico. Se leggevi sui giornali, nell'ultima pagina dei giornali parigini, in Italia sarebbe arrivato dopo, c'era sempre il riquadro del busto magnetico del professor Nicole, che era un busto da indossare, che in qualche modo doveva far bene, oggi vendono il braccialetto magnetico, insomma il magnetismo continua a vendere tantissimo anche se non ha mai dimostrato un vero uso, insomma una vera efficacia curativa e terapeutica, un busto che guariva dalla sciatica, dalla scogliosi eccetera. E lei se ne è comprato uno, se l'è nascosto sotto il corpetto, sapendo che una donna non sarebbe mai stata perquisita, perché ovviamente non si poteva mettere le mani addosso alle donne, un uomo sì, si avvicinava alle bussole e riusciva a farle deviare con la forza del pensiero. Naturalmente non era la forza del pensiero, ma era la forza del suo corpo, e quindi l'idea che questa donna indossasse questi busti nascosti e utilizzasse dei metodi assolutamente materiali di bassissima lega, ma che fosse così abile a renderli invisibili, a renderli così impalpabili da convincere scienziati di essere in grado di spostare le bussole, è interessante. Peccato che dalla commissione torinese che l'ha controllata non siano rimasti dei resoconti, perché ha talmente deluso i medici che invece hanno cercato di verificare per bene quello che faceva, e l'Accademia di Torino era abile in questo, sono riusciti a scoprire i trucchi, non l'hanno neanche degnata di un resoconto. Invece a Milano l'hanno ritenuta degna di 3 articoli scientifici che io ho riportato nel dossier, quindi nel dossier ci sono i 3 rapporti scientifici, uno dei quali è entusiasta da parte di un medico e scienziato che dice: io ero convinto di andare lì a vedere dei giochi di prestigio, sono uscito sconvolto, questa donna sposta col pensiero la bussola, l'ago della bussola, per cui è evidente che qui nel magnetismo animale c'è qualcosa, non derubrichiamolo a semplice illusione, perché qui c'è qualcosa di vero. Quindi l'idea che una donna con un busto truccato possa fregare degli scienziati, insomma, è preoccupante da un lato se ci mettiamo dal punto di vista della scienza, è super bello se ci mettiamo da un altro punto di vista. E allora, uno dei temi che mi ha anche colpito e di più nel libro e che mi viene in mente rispetto a questo intervento che hai fatto è il rapporto appunto tra scientismo, tra scienza e tra magia. E mi è venuta in mente una cosa, Ernesto De Martino in Su De Magia parla della nascita della jettatura napoletana. Ovviamente ci stiamo muovendo su un campo completamente diverso, qua stiamo parlando di illusioni e lì stiamo parlando invece di credenze magiche, di magia, no? Ci muoviamo su un piano antropologico, qualcosa di completamente diverso. Però De Martino, quando parla di jettatura, dice che la jettatura nasce con l'arrivo dell'illuminismo nel regno di Napoli e con, diciamo, le elite napoletane che si stavano come dire, convertendo, tra virgolette, si può dare questo termine, all'illuminismo, ma venivano comunque da un background culturale in cui credevano alla magia in realtà, perché il meridione era profondamente intriso di pensiero magico culturalmente parlando. E arrivano a questo compromesso, lui lo chiama proprio un compromesso, diciamo, tra il bisogno di credere in qualcosa e invece la necessità di, dall'altro lato, svalutare quella stessa credenza in cui si crede, che è un po' la stessa cosa che fanno tutti gli italiani e le italiane rispetto alla scaramanzia. Cioè, non ci credo alla magia, non ci credo alla scaramanzia, non ci credo alla iella, però quando un gatto nero mi attraversa la strada non ci passo con la macchina, cioè aspetto che passa quello dietro di me. Oppure se spando il sale, non ci credo, però comunque il sale me lo butto alle spalle, no? Quindi questa cosa del non è vero ma ci credo, che è una cosa, diciamo, tipica, caratteristica della cultura italiana e mediterranea in generale, nasce appunto dall'incontro, questo incontro-scontro strano tra l'illuminismo, il pensiero scientista razionale e un bisogno di magia. E anche il mentalismo nasce nello stesso modo, tu lo spieghi bene, cioè il mentalismo nasce nel momento in cui arriva l'illuminismo e i maghi dicono: ah sì, noi dobbiamo dimostrare qualcosa alla scienza, noi troviamo il modo per fare magia comunque, quindi usando un linguaggio scientifico. E questa cosa mi ha interessato un sacco, perché mi viene spontanea la domanda: ma allora abbiamo bisogno di magia? Cioè le comunità umane hanno bisogno di magia, qualunque significato diamo a questa parola? Questa è una domanda teorica che guida la mia curiosità da sempre. Facendo l'illusionista mi sono sempre chiesto perché c'è questo bisogno di magia in un'epoca che apparentemente l'ha espunta del tutto, perché siamo figli dell'illuminismo, della tecnologia, e se possiamo usare i cellulari grazie alla scienza, non alla magia. Perché c'è questo bisogno? Io non sono mai riuscito a dare risposte teoriche a questa domanda. Più volte vari editori mi hanno chiesto: perché non ci parli dal punto di vista teorico di questo punto? Mi sentivo totalmente con la sindrome della pagina bianca, perché non sapevo che cosa scrivere, e anche lì mi sono rifugiato nella storia. Mi sono detto: che cosa ci insegna la storia? Allora, cercando come hanno risposto altri, mi è stato più facile in qualche modo proporre delle risposte. E in effetti, all'epoca dell'illuminismo, si dice che tutto quello che è stato creduto fino in quel momento sono frottole. C'è questo atteggiamento un po' di sguardo coloniale, per cui l'Europa bianca e occidentale, eccetera, sa qual è la verità e ha capito che la scienza è l'unica cosa che conta. le popolazioni indietro e arretrate eccetera si contraddistinguono proprio dal fatto di credere alla magia. Magari fosse così semplice. In Europa la magia sopravvive cambiando abito, per cui per esempio l'illusionismo, che prima si basava sul calamite, sul filo invisibile, sui trucchi insomma meccanici, sopravvive come cosa per i bambini, infantilizzata, per cui è qualcosa che al limite i bambini possono apprezzare. Un adulto non può davvero applaudire uno spettacolo se non è ben spiegato che sono tutte illusioni eccetera. Che cosa fanno i mentalisti? Utilizzano il paradigma scientifico del magnetismo animale, lo parassitano, presentano gli stessi numeri di illusionismo che avevano presentato fino al giorno prima, dicendo però che in azione ci sono principi scientifici, il fluido magnetico, quello che avete visto prima fare con Denise e lo stato di sonnambulismo. Erano tutte bugie, avrei potuto presentarlo come un gioco di prestigio classico in cui io fingevo strani movimenti nell'aria, usavamo un palloncino e all'esplosione del palloncino uscivano i nomi delle carte. Invece l'ho messo in quella cornice perché è quello che ha fatto la magia, è riuscita a sopravvivere travestendosi da scienza. E la domanda che mi faccio oggi è: in che modo la magia oggi riesce comunque a travestirsi di altro? Se andiamo a vedere, tantissime delle credenze degli antivaccinisti tirano in ballo principi magici legati per esempio all'idea che nei vaccini possano averci installato all'interno dell'organismo strumenti per controllarci. È un'immagine che secondo me il mentalismo prima o poi adopererà come strumento per restare credibile. Oppure nanotecnologie. Io mi aspetto che fra un secolo un mentalista non dirà più cerco di usare la psicologia per capire se stai dicendo il vero o no, ma dirà: io ho riempito questa sala di micro droni grossi come un atomo, che voi non potete vedere, ma che vi portano le informazioni dalla sua mente alla mia, per cui dai solo il tempo al drone di uscire dal tuo orecchio e raggiungere il mio. Ok, era un tre di cuori, vero? E questo sarà creduto vero perché sarà l'epoca dei droni, ma il trucco usato è quello che si usava nel Medioevo. Quindi c'è la magia dell'illusionismo in qualche modo che è costante e utilizza sempre gli stessi trucchi, ma la cornice narrativa che in qualche modo ci si mette sopra cambia col tempo, perché il mentalismo è questa manipolazione della credulità tale per cui deve sempre convincere che questo sia possibile. Credo che la vera credenza della magia sia molto parente di tutto questo. In che modo nel profondo, dal punto di vista teorico, non lo so e non l'ho ancora capito. Ma questi sono tentativi di esplorare proprio questo ganglio. Super interessante. Dove eravate voi mentalisti? Stavamo aspettando risposte su un modo per leggere criticamente, politicamente la realtà da questo approccio che a me sembra interessantissimo e fondamentale. Finalmente uno di voi ha scritto un libro rilevante su questi temi dal punto di vista politico, quindi grazie per aver scritto questo libro così importante per tutte e tutti noi. E basta, direi, sono stanca. Dici di provare a fare quella cosa delle domande oppure facciamo finta di averla fatta? Facciamo finta di averla fatta? Domande. Cioè, se proprio... Allora, solo una battuta a quello di quello che diceva prima sul fatto del... non ci credo, ma non è, ecco, battuta è: io non sono superstizioso perché essere superstiziosi porta male. Tanto mi sa che è una battuta anche che usa Totò in un film, se non sbaglio. Non so. Totò. Non vorrei dire, però mi sembra. Allora vi salutiamo con un pezzo musicale, sì. Perché una delle... se fossi un accademico non potrei permettermi queste buffonate. Facendo il prestigiatore posso tranquillamente... Quanto si può andare a fondo nell'essere innamorati di una vicenda? Ora, questa Ersilia, che è stata chiusa in manicomio, urlava non solo la sua innocenza, che era proprio il minimo, ma anche la sua sanità mentale. E nessuno la credeva perché in manicomio hai immediatamente quella gabbia per cui qualunque cosa tu dica viene reinterpretata in quel modo. E in particolare lei diceva: ma io sono una pianista, cercate su Google. Ma non poteva dirlo, cercate su Google, perché Google non esisteva ancora. E io immagino se dovessi essere proiettato all'epoca e dicessi: ma io scrivo, ho pubblicato varie cose per Nero, cercatelo su Google, mi avrebbero riso in faccia dicendo: ma Google non c'è. Lei avrebbe potuto dire: cercate sui giornali le recensioni dei miei spettacoli, ma all'epoca non poteva farlo, e quando lo diceva questi le ridevano in faccia. Io ho trovato maledizione una recensione in cui, per esempio, l'ho messa nel dossier, in cui si racconta che lei dava sedute gratuite, che era stranissimo perché lei voleva che la musica fosse accessibile a tutte e tutti, e di più ho trovato uno spartito musicale con un suo pezzo scritto da lei, un pezzo in cui parla di amore, fa cantare a una donna, e quindi secondo me all'epoca aveva un po' quella stessa ambiguità fluida di quando sentiamo quelli di Brivido, Mahmood e Blanco. Qui sono due maschi che parlano di amore, non si capisce in che rapporti sono eccetera. Lei con l'altra, che vi dico come si chiamavano perché ho riportato nel dossier anche lo spartito che l'avrebbe in qualche modo salvata, perché avrebbe dimostrato che lei era davvero una pianista, ma chi si prendeva la cura. Si titolava Cour de Benoît, corri davanti a me. Lei era Mademoiselle Guillet, quella che cantava. Lei era Ersilie Ruiz, l'autrice del pezzo di musica e parole, e mi sono detto, trovare lo spartito è lo step 1, e poiché magari finiremo in radio, farlo suonare allo step 2 e farlo cantare allo step 3. E quindi mio papà, Tomatis Angelo, ha suonato il piano, l'amica Alice ha usato la voce per cantarla. Se volete vi faccio ascoltare un pezzettino della canzone di Arsiglia, che a me è emozionato in particolare, perché restituire la voce a queste sonnambule può essere anche letterale, recuperando un pezzo che forse le avrebbe semplificato il rilascio dal manicomio. Vediamo se funziona. Quindi la evochiamo. Evochiamola. Corri davanti a me. Devo connetterlo. Va moi ma petite coquette, sautez-vous dire joyeusement, c'est toi qui mon âme inquiète, aimera toujours tendrement, c'est toi qui mon âme inquiète, aimera toujours tendrement, aimera toujours, aimera toujours, aimera toujours tendrement. Vive solitaire, je sens mon cœur se déchirer, devine à ma douleur amère, vite avec moi tu viendras. Io sono sicuro che avrebbe anche apprezzato il tram, perché è veramente punk questa soluzione. Con la vita che ha fatto era veramente il minimo, avrebbe pagato per suonare una vita con un tram che le passava dietro, invece ha fatto una vita molto più grama, e niente, su queste note direi che vi ringrazio per la presenza in un pomeriggio così caldo. Recuperate assolutamente il podcast Cassandra, perché se vi è piaciuto quello che avete sentito finora, potrete sentire Ludovica andare avanti per svariate ore su questi temi, ed è una meraviglia assoluta. Grazie Ludovica. Grazie Mariano.